L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata nella quale affronteremo due temi diversi. Cominceremo da Vento BC Tour, che si conclude domani a Torino, per poi passare a Bologna, dove sta invece per iniziare il G7 dei ministri dell'ambiente. In settimana i sindaci delle città metropolitane italiane comunque si sono già riuniti a Bologna, hanno già firmato la carta di Bologna, prendendo diversi impegni rispetto all'ambiente e alle città nelle quali viviamo, e quindi sentiremo di cosa si tratta. Dicevamo però, iniziamo da Vento BC Tour. Allora, Vento, facciamo un piccolo riepilogo, Vento è il nome che è stato dato alla pista ciclabile che da anni ormai il Politecnico di Milano studia e progetta lungo il Po, da Venezia a Torino e viceversa ovviamente. Si tratta di adattare e mettere in sicurezza le strade degli argini, quindi non si tratta di costruire qualcosa ex novo, si tratta appunto di sistemare il tutto in modo che questi argini siano fruibili per i cicloturisti, quindi con tutti i servizi anche necessari. Il BC Tour invece è quello che ormai da 5 anni il professor Paolo Pileri, docente del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani al Politecnico di Milano, fa con i collaboratori e gli studenti per fare rilevazioni, incontrare gli amministratori, incontrare i residenti, spiegare il progetto e così via. Quest'anno al tour hanno potuto partecipare per la prima volta anche però dei turisti in alcune tappe in particolare, ma non è mancato il momento istituzionale. A Brancere, vicino a Cremona, sul Po sono arrivati il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio e il governatore della regione Lombardia Roberto Maroni, che è la regione capofila, questa è la Lombardia, per la realizzazione di quest'opera. Sappiamo che Vento ormai infatti è inserito nel piano delle infrastrutture ciclabili d'Italia e quindi insomma siamo già a un livello molto più alto di questa progettazione. Sentiamo che cosa hanno detto Del Rio e Maroni. Il primo, Del Rio, sappiamo, è un grande appassionato di ciclismo e si è fatto anche un pezzetto di Vento sulla due ruote. Il sistema nazionale delle ciclovie è finanziato per i prossimi 7-8 anni, quindi ha a disposizione oltre 700 milioni di euro, che è una cifra straordinaria. C'è un sistema quindi che si diffonde in tutta Italia, che porta economia, porta sviluppo e porta lavoro come in tutta Europa. Quindi molto bene, 2 anni fa stavamo ragionando di un sogno e di una prospettiva, adesso ragioniamo di una cosa concreta. Oggi lei come raggiungerà il Molo 53, in bicicletta o in motonave? In bici, sono attrezzato per la bici. Roberto Maroni è più musicista che ciclista, come è noto, ma comunque ha formalizzato l'intenzione di seguire il progetto da vicino, istituendo una cabina di regia per coordinare l'azione. Abbiamo deciso di costituirla in Regione Lombardia, con la presidenza della Regione Lombardia, con il Politecnico, la Fondazione Cariplo e i territori. Ho chiesto al sindaco di Cremona di organizzare una rappresentanza dei territori, perché è un progetto veramente molto ambizioso questo e serve una cabina di regia. Ci sono 20 milioni nel patto per la Lombardia per la ciclovia Vento, vogliamo spenderli bene con l'accordo di tutti e poi vogliamo fare anche un passo in più, collegare questa bellissima ciclovia da Venezia a Torino con il sistema di ciclovie che c'è a nord, cioè in Lombardia, magari anche parlando con la Svizzera. Sono 4.000 chilometri di piste ciclabili in Lombardia e voglio fare un ecosistema di piste ciclabili che faccia della Lombardia davvero un modello di riferimento per tutte le regioni d'Italia e anche per l'Europa. E a questo punto ci colleghiamo con Paolo Pileri, che oggi finalmente vede la fine di questo tour partito il 2 di giugno. Buon pomeriggio a voi. Allora, io ho fatto sentire poco fa agli ascoltatori le dichiarazioni, diciamo, del presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, e del ministro Del Rio, che sono intervenuti a Cremona, l'uno molto così fiducioso nel futuro di Vento, Del Rio, l'altro con l'intenzione di istituire, Maroni, una cabina di regia per portare avanti questo lavoro. Com'è andata quella giornata? Ti sembra una buona idea questa della cabina di regia? Ma le cose sono andate, direi, molto molto molto bene, nel senso che già la presenza di un ministro e di un presidente di una regione, come dire, sono la sottoscrizione di un impegno che alcuni anni fa non avremmo pensato. Quindi voglio dire, abbiamo la certezza e la chiarezza che Vento sta ormai nell'agenda, ma nelle prime pagine, nei primi posti dell'agenda della politica sia nazionale che regionale, questo è fondamentale. Dopodiché sono arrivati tutti puntuali, perfetti, Del Rio ha pedalato, Marroni ha navigato, quindi hanno fatto le due cose che insieme, come dire, faranno ancora più esplodere le potenzialità di un progetto come evento. Quindi noi raccogliamo da quella giornata assolutamente una positività grande. L'idea della cabina di regia è esattamente quello che noi speriamo che avvenga in Lombardia, come in Piemonte, come anche a livello ancora nazionale. Abbiamo bisogno, perché abbiamo sempre detto che Evento non è un progetto solo di ciclabilità, ma la bicicletta è semplicemente un mezzo per un progetto di territorio. Se è un progetto di territorio abbiamo bisogno di coordinare tutta una serie di altre azioni, quelle ricettive, enogastronomiche, piuttosto che altre potenzialità. Quindi è fondamentale avere una cabina di regia. Peraltro Maroni ha anche detto cabina di regia sotto la presidenza, perfetto. Perché dici, saltiamo in qualche un po' di scalini in questo modo, direttamente risponde alla presidenza? In parte per questo, quindi gli dà, se vogliamo, più potere, ma anche in parte perché, voglio dire, mantiene lo sguardo, come dire, su tutta una serie di tematiche settoriali. Diversamente, se fosse sotto un assessorato, dovrebbe dipendere da quella tematica settoriale. E questo è esattamente quello che vuole essere Vento. Vento è un modello di sviluppo, è un modo nuovo di guardare i nostri territori a partire dai territori più deboli, quelli delle aree interne. Dunque, se c'è una cosa che a me è un po' preoccupato, diciamo così, tra virgolette, è che ho sentito Maroni pensare forse addirittura troppo in grande. È vero che bisogna pensare ai collegamenti con le piste svizzere, con tutte le grandi possibilità, però bisogna intanto realizzare Evento. Cioè, non vorrei che si pensasse troppo lontano, no? Per poi non dimenticarsi che c'è qualcosa da fare sul territorio subito. Allora, questo, come dire, qui dobbiamo vedere cosa succederà, perché voglio dire, gli slanci, per carità, ben vengano, e quindi lasciamo che chi decide, affascinato da un certo progetto, poi, come dire, parta per la luna e va benissimo. Dall'altro c'è sicuramente questo pericolo, cioè il pericolo che poi ci si disperda su mille rivoli, su tanti altri progetti e non si porti a casa, come dire, un progetto come questo che poi fa da volano per tanto altro. Lo abbiamo sempre detto e lo diremo sempre, senza negare gli slanci di nessuno, che il cicloturismo non si compone perché faccia tanti pezzetti qua e là. Abbiamo bisogno di un grande e continuo e perfetto bla bla progetto, infrastrutture in questo caso, come Evento, come Sole, e attorno a quello poi dopo domani andiamo a costruire le altre situazioni. Quindi bisognerà tenere questo come schema di lavoro. Questo non vuol dire che una cabina di regia piuttosto che altre iniziative non debbano cominciare ad arrivare sul tavolo, insomma. Altro da raccontare agli ascoltatori sull'incontro di Cremona? Sicuramente la biciclettata con il ministro Del Rio è stata molto interessante, perché il ministro ha voluto, come dire, questo ci fa molto piacere, anche un atto di curiosità e di umiltà raro, cioè ha voluto proprio chiedere nei dettagli che cosa, come dire, frena o qualcosa potrebbe mettere in difficoltà la realizzazione di un progetto come Evento. Noi sappiamo che gli argini vanno trattati in un certo modo, piuttosto che l'ostinazione del progetto di passare sulle sommità arginali è stato compreso dal ministro, che quando pedali, come abbiamo fatto in quel giorno, a 5 metri da terra, beh, il paesaggio è un'altra cosa che vedi dalla bicicletta, è proprio un'altra cosa, che non sta schiacciato lì per terra. E anche l'altra cosa che ci ha molto interessato è la curiosità e l'interesse verso anche il progetto di comunicazione, ovvero abbiamo sempre immaginato che i progetti come Evento possano funzionare perché si farà l'infrastruttura, dopodiché abbiamo bisogno di raccontare questa infrastruttura, raccontare il territorio che si svolge attorno a questa infrastruttura anche ad altri che non sono lì. Quindi io dicevamo al ministro, prendiamo e andiamo in Basilicata, come in Abruzzo, come nelle Marche, a raccontare Evento, ma non perché dobbiamo, come dire, fare le lodi di Evento, ma semplicemente per capire che si può fare questa cosa anche altrove. e bisogna raccontarla, perché l'idea di cicloturismo che oggi i cittadini e gli amministratori hanno in testa non è così messa a fuoco, non è così chiara. Quindi, e su questo ho trovato, come dire, interesse. Sì, è vero, dobbiamo fare questa cosa. Quindi la giornata è stata molto interessante. Proficua. In più c'era un sacco di gente, e questo è molto bello. C'era questo senz'altro gente, è molto bello. Sì, tanta gente, tanti cittadini, tante associazioni, tanti interessi locali che si stanno cominciando a ristrutturare attorno a questa linea. Questo mi fa anche dire che oggi, come dire, se potessi scegliere, se potessi dire, se potessi suggerire, direi: ma signori miei, ma forse abbandoniamo un pochettino le politiche degli incentivi e andiamo verso delle politiche che realizzano infrastrutture su cui poi anche le imprese possono costruire un futuro. Dunque, a proposito di imprese di futuro, avete visitato anche qualche edificio del Demanio, forse vale la pena di spendere due parole anche su questo. Che senso avevano questi, no, sopralluoghi che avete fatto? Sì, il Demanio ha lanciato questa iniziativa Sentieri e Cammini, ovvero andato a cercare qualche centinaia di immobili dello Stato italiano che non sono più utilizzati e che si trovano in prossimità di questi cammini, di queste ciclovie o dei progetti di ciclovie come ad esempio Vento. Allora, l'iniziativa è di per sé interessante, cioè ci sono degli edifici, ne abbiamo visitato uno alle porte di Pavia, a Certosi di Pavia, che è un mulino bellissimo, veramente un edificio di grandissimo pregio, piuttosto che abbiamo visitato delle piccole edifici nella campagna. Allora, è un'iniziativa che è interessante, cioè il lungo Vento possiamo immaginare anche di come dire, un progetto di rigenerazione territoriale, e quindi tutto questo dismesso, tutto questo privato pubblico può, come dire, in qualche modo tornare a vivere. Quindi iniziativa di per sé interessante, c'è molto da fare. Diciamo che anche qui abbiamo visto, come dire, un ente come il Demanio, perché insomma sino a 10 giorni prima noi non gli davamo neanche un viso, perché di solito noi italiani il Demanio cos'è, wow. E invece qui oggi abbiamo visto funzionari molto entusiasti, dirigenti molto entusiasti, dire: abbiamo un patrimonio, proviamo a metterlo a valore, proviamo anche a darlo a piccoli imprenditori di domani, senza chiedere in cambio niente, perché ci sono delle concessioni che vengono date gratuitamente con una tempistica di 18 anni su cui uno deve farsi il suo business plan, deve capire se funziona o no. Ma insomma, quello che raccolgo di positivo è che c'è anche un altro pezzo di Stato che sta cominciando a reagire all'idea che esistono cammini, che esistono percorsi cicloturistici, e che questi sono vettori di occupazione e di economia, e di conseguenza che possono essere vettori di rigenerazione urbana. Questo è, credo, l'elemento importante. Dopodiché le tattiche, le politiche si stanno configurando, vanno forse anche in certi aspetti corrette, però voglio dire, l'energia, anche in questo caso, che è schizzata fuori, come dire, questa la conserverei, direi, wow, che per me è positiva. Benissimo, allora buona giornata, buon lavoro, buona pedalata e a risentirci presto. Grazie Radio 24, state molto bene tutti voi, grazie. Ancora grazie a Paolo Pileri e ci ritroviamo tra pochissimo. L'altro pianeta. Seconda parte della trasmissione di oggi, ancora ben ritrovati da Laura Bettini. Come promesso andremo a Bologna adesso, dove sta per iniziare il G7 dei ministri dell'ambiente domani, ma dove in settimana i sindaci delle città metropolitane italiane hanno già firmato la Carta di Bologna. Il giorno della firma ne abbiamo parlato con il sindaco Virginio Merola, ma come sentirete l'audio non è un granché di questa intervista, e quindi abbiamo scelto di farvi sentire solo qualche passaggio e poi di approfondire la questione con l'assessore all'ambiente di Bologna, Valentina Orioli. Cominciamo col sindaco Merola e una breve descrizione della carta. Abbiamo preso degli impegni precisi, 8 azioni quantificate negli obiettivi che vogliamo raggiungere. Si tratta di ridurre del 40% entro il 2030 il consumo di energia con anidride carbonica, e quindi passare maggiormente a energie alternative. Si tratta di ridurre il consumo di suolo. A partire da questi impegni, di cui ci assumiamo la responsabilità, abbiamo anche chiesto un'agenda urbana nazionale condivisa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio per riuscire a dare attuazione piena a tutte queste politiche che dalle città abbiamo già cominciato a fare e vogliamo incrementare. E ancora, il sindaco Virginio Merola su cosa serve come sindaci per proseguire lungo questo percorso. Noi ci assumiamo la responsabilità di fare piste ciclabili, di eliminare parcheggi per fare posto alle piste ciclabili. Siamo pronti a assumerci tutte le nostre responsabilità, contando sulla consapevolezza dei cittadini e anche sopportando qualche protesta. Il punto vero è che questa pressione della città devono corrispondere finanziamenti mirati sulle città e coordinati. Sì, vedo che lei insiste molto su questo punto, quindi questa è una delle difficoltà che avete riscontrato un po' parlando tra di voi. Sì, perché vede, siamo stati invitati a un incontro con la Commissione europea, c'erano delegazioni di diversi sindaci che hanno proposto di condividere 12 aree tematiche per condividere insieme Commissione europea e i sindaci un'agenda europea per le città. Quindi può immaginare il nostro imbarazzo rispetto al fatto che ancora nel nostro paese manca un'agenda urbana nazionale per le città. Ci sono provvedimenti, ma sono dispersi nei vari ministeri. Abbiamo bisogno di un interlocutore unico anche per dare più efficacia agli interventi stessi. Ed ecco, scendiamo nel dettaglio con l'assessore all'ambiente, anche all'urbanistica, Valentina Orioli del Comune di Bologna. Innanzitutto bisogna dire che sono impegni ben radicati in un contesto internazionale, nel senso che la carta è stata costruita a partire dai Sustainable Development Goals, cioè dagli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda ONU al 2030, in particolare declinando i temi ambientali che sono contenuti nel Goal 11, che è quello dedicato alle città. Quindi si tratta di impegni che riguardano aspetti a noi tutti direi cari, come l'uso sostenibile del suolo e l'adozione di soluzioni basate sui processi naturali, l'economia circolare, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio, la transizione energetica, ma anche la qualità dell'aria, per esempio, la qualità delle acque, e ancora gli ecosistemi, l'incremento del verde urbano e la tutela della biodiversità e infine le misure per una mobilità sempre più sostenibile. Quindi sono 8 capitoli che riguardano altrettante aree tematiche nelle quali si declina la sostenibilità urbana. Quindi nel sottoscrivere questi impegni, diciamo, ovviamente ci saranno città più o meno avanti, l'idea è di mettervi a collaborare per puntare insieme al raggiungimento di questi obiettivi, credo. Sì, diciamo che l'obiettivo di questa carta è duplice, forse anche triplice. La prima cosa è mettere a fuoco attraverso questi 8 capitoli che sono gli aspetti fondamentali della sostenibilità ambientale in città, mettere a fuoco gli obiettivi internazionali e anche misurare il fatto che le prospettive nazionali italiane talvolta sono un pochino indietro rispetto agli obiettivi internazionali, quindi segnalare la disponibilità dell'impegno da parte delle città metropolitane a provare a raggiungere gli obiettivi internazionali, ma al tempo stesso segnalare al nostro governo anche la necessità di un supporto su questo, perché appunto non sempre gli strumenti di cui disponiamo a livello nazionale sono sufficienti per arrivare a raggiungere quello che la comunità internazionale ci chiede. Quindi c'è un'assunzione di impegno, dall'altra parte come dire anche una richiesta di supporto e infine l'occasione di coordinamento fra le città metropolitane che sarà molto importante perché ci permetterà nel prossimo futuro appunto di confrontarci e anche di sostenerci a vicenda. Ci sono città che sono più avanzate su alcuni fronti, città che stanno facendo sperimentazioni e progetti egregi su altri fronti e indubbiamente il confronto fra noi è anche uno strumento per tutti di avanzamento. Con il sindaco, quando abbiamo parlato della vostra giornata, abbiamo anche così parlavamo di auto elettriche, no? Dice se io posso entrare a Bologna con l'auto elettrica senza pagare nell'area più centrale della città, magari sapere che lo posso fare anche a Milano, anche a Torino, quindi tutte nelle città metropolitane, diciamo che unifica no, le vostre politiche e dà al cittadino la possibilità di muoversi con agio sul territorio italiano sapendo che le cose funzionano uguali. Sì, questo è un aspetto sicuramente del coordinamento che è emerso ieri ma sul quale stiamo discutendo in maniera approfondita già da un po' di tempo, soprattutto con Torino, Milano. Dico Bologna, Torino e Milano perché? Perché sono le città capoluogo dell'area padana che stanno facendo anche attraverso le regioni di riferimento un coordinamento molto forte sui temi della qualità dell'aria. Questa mattina in Regione Emilia-Romagna si firma questo protocollo storico fra il Ministro dell'Ambiente e i quattro presidenti di Regione Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Lombardia proprio sulla qualità dell'aria. Allora, è chiaro che le regioni e il Ministero lavorano su delle politiche a carattere generale, ma poi sono le città che devono declinare queste politiche nei provvedimenti quotidiani che si prendono, no? Nelle azioni che si fanno appunto sullo spazio della città, e quindi noi stiamo ragionando e lavorando per adottare misure comuni in modo che, come diceva lei, ci sia anche una facilità per i cittadini che sono sempre più sensibili a questi temi di applicare effettivamente queste misure. Lo stesso faremo anche con le altre città, cioè la nostra volontà di coordinamento va oltre a questo, ma un primo passo è sicuramente l'area, diciamo, della pianura padana, che è l'area più afflitta da problemi di inquinamento. È chiaro, poi ci sono ovviamente tutti gli altri temi che quindi possono essere sviluppati in altre, con altre collaborazioni. L'adattamento ai cambiamenti climatici è un tema sul quale la città di Bologna può mettere la sua esperienza, nel senso che noi siamo stati la prima città italiana a dotarsi di un piano di adattamento, e nell'ottica di un coordinamento fra città metropolitane possiamo certamente portare la nostra esperienza anche a beneficio delle altre città. Sicuramente, infatti voi siete stati degli apripista in questo. Tra l'altro, quanto tempo fa è iniziato il vostro programma su quell'ambito lì dell'adattamento al cambiamento climatico? Ma comunque il piano di adattamento è stato formato nello scorso mandato amministrativo, direi fra il 2012-2015, grazie ad un progetto europeo LIFE. Ora è appunto adottato, approvato, insomma il piano è, diciamo, nella sua fase esecutiva, e recentemente lo abbiamo rilanciato con una call to action che ha raccolto circa 60 progetti in città, perché questi piani hanno la caratteristica di attuarsi sempre anche grazie al contributo dei cittadini, dei privati, degli attori economici, quindi non c'è solo l'azione pubblica, l'ambiente è qualcosa in cui occorre agire tutti insieme con una stessa finalità, e quindi questi piani poi si attuano attraverso progetti che richiedono anche un forte coinvolgimento, direi, di tutta la cittadinanza. E ovviamente con una regia nazionale, possibilmente, questo è un altro aspetto su cui avete insistito molto, no? Sì, l'aspetto fondamentale di questa carta è appunto il voler richiamare l'importanza di una regia nazionale nei temi ambientali, e io direi più in generale nei temi urbani, cioè se noi vogliamo veramente arrivare ad avere dei buoni risultati nel governo delle città e in un governo che vada sempre più verso la sostenibilità, è molto importante che ci sia una regia nazionale. Fra l'altro questi temi sono trasversali a molti ministeri, a molti settori, e quindi la regia dovrebbe essere posta in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché coinvolge, anche se parliamo di ambiente, coinvolge effettivamente quantomeno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Agricoltura, e poi ce ne sono anche altri. Quindi sono strategie che, oltre a dover avere un respiro nazionale, devono essere anche profondamente integrate. Quindi noi, firmando questa carta, abbiamo anche voluto segnalare questa necessità di un'attenzione nazionale, ma anche di una profonda integrazione delle politiche e poi dei provvedimenti che conseguono. Bene, la ringrazio, buon lavoro. Allora, so che avete anche in arrivo una delegazione dalla California, quindi insomma non vi mancheranno gli incontri. Non ci possiamo mancare nulla in questi giorni, comunque. Ci fermiamo qui per questa puntata. Grazie dell'ascolto. Da Laura Bettini, un buon proseguimento su Radio 24. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.